Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Hashtag Autotrasporti, il programma di Radio 24 dedicato al mondo dell'autotrasporto, un comparto cruciale per l'economia del paese. Il nostro è un viaggio parallelo a quello che ogni giorno e ogni notte compiono migliaia e migliaia di mezzi diretti ovunque, trasportando di tutto. Questo programma va in onda in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. In apertura parliamo del registro telematico nel quale sono immagazzinati i dati delle imprese di autotrasporto, uno strumento promosso dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori attraverso il quale sarà possibile verificare la regolarità delle imprese. Il database avrebbe dovuto essere pienamente operativo già dal 1 ottobre, ma si è reso necessario un rinvio di 45 giorni. Quindi da parte dei committenti la consultazione sarà possibile a partire dal 16 novembre. Entro quella data le imprese avranno la possibilità di verificare i dati inseriti e quindi eventualmente potranno apportare correzioni e modifiche alla luce anche di una serie di problemi di comunicazione che si sono verificati con le banche dati degli altri enti coinvolti. Per spiegare la necessità dello slittamento dei tempi inizialmente previsti, oggi abbiamo in linea Silvio Faggi, vicepresidente del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Faggi, buon pomeriggio. Buongiorno. Allora, come si è determinato questo rinvio? Il rinvio, in effetti, è dovuto più ad una ragione di carattere tecnico. Non abbiamo ancora completato la ricognizione per quanto riguarda il rilascio del DURC per tutte le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori e quindi si è reputato che fosse più opportuno aspettare qualche giorno piuttosto che uscire con un lavoro sotto il profilo, come dire, quantitativo ma anche qualitativo incompleto. Credo che sia interesse di tutti, dei lettori e dei committenti, procedere rapidamente a questa ricognizione. Per ora il sistema è aperto solo ai vettori e dal 15 di novembre a questo punto, dal 16 di novembre anche ai committenti, procedere a questa ricognizione, perché credo che un settore ricondotto, no, al rispetto delle regole basilari sia un settore che dà più garanzia a tutti. Proviamo a spiegare cos'è e a che cosa serve questa grande banca dati. Il settore dell'autotrasporto è in grandissimo affanno, grande difficoltà, non solo per la concorrenza feroce che proviene dai paesi neocomunitari in particolare, che hanno costi decisamente più bassi rispetto alle nostre imprese, ma anche per una illegalità diffusa e quindi una concorrenza sleale che una parte di imprese pratica nei confronti dell'altra parte. Il legislatore, prendendo atto delle richieste che in questo senso sono state avanzate da tutte le associazioni dell'autotrasporto, con due provvedimenti, la finanziaria del 2014 e quella del 2015, ha assegnato all'albo il compito di verificare la regolarità delle imprese. E l'albo nel primo semestre di quest'anno, con uno sforzo direi veramente eccezionale, è riuscito a portare a termine questo lavoro che, ripeto, solo per un aspetto, se vogliamo, marginale, non lo è, ma rispetto alla mole del lavoro prodotto è così, per un aspetto marginale si è reso necessario rinviare di un po' di giorni l'apertura del sistema ai committenti, i quali committenti potranno verificare preventivamente se l'impresa di trasporto alla quale intendono affidare il servizio è regolare oppure no. Ci saranno responsabilità precise anche per i committenti? Sì, la responsabilità è una responsabilità che la norma identifica in maniera precisa e puntuale, perché in buona sostanza il committente che non verifica, o meglio che affida il trasporto ad un'impresa che non è regolare, quindi io committente non faccio la verifica, e come dire, mi utilizzo quello che costa di meno, il vettore che costa di meno, quello che mi si offre, quello che conosco da sempre magari, ma non faccio questa verifica e malauguratamente questa impresa dovesse risultare non regolare, il committente risponde per tutte le obbligazioni. Il 12 e il 13 ottobre, quindi lunedì e martedì della prossima settimana, a Cernobbio si svolgerà il primo forum internazionale di Conftrasporto dedicato ai trasporti e alla logistica, organizzato da Confcommercio e European House Ambrosetti. Per presentare questo appuntamento oggi è collegato con noi Pasquale Russo, segretario generale di FAI Conftrasporto. Buon pomeriggio, Russo. Buon pomeriggio. Perché questo forum? Intanto diciamo che è il primo forum internazionale della logistica e del trasporto, che vuole essere un'occasione attraverso la quale si fa una valutazione complessiva di qual è lo stato dell'arte della logistica in Italia, ma lo si fa non guardando soltanto a quelle che sono le politiche del trasporto e della logistica italiana, ma lo si fa soprattutto guardando a quello che è stato fatto e a quello che si farà in Europa e nel mondo. Insomma, questo forum è anche un modo per ribadire che è fondamentale che si faccia sistema. Il titolo, diciamo, uno dei temi del forum è proprio la disconnessione italiana. Sotto il titolo disconnessione si vuole intendere proprio questa, la incapacità del nostro paese di mettere a sistema le infrastrutture con i servizi logistici e la come dire, anche miopia delle politiche che negli ultimi 30 anni sono state fatte nel nostro paese, che non hanno assolutamente tenuto in conto del forte contributo che la logistica e il settore dei trasporti, delle infrastrutture, può dare alla crescita del nostro paese. Dopo anni difficili, anzi difficilissimi, per il mondo dell'autotrasporto, da alcuni mesi si susseguono dati che indicano un'inversione di tendenza e quindi paiono piuttosto incoraggianti. Tra questi, significativo quello relativo alle immatricolazioni dei veicoli commerciali, cioè dei mezzi fino alle 3 tonnellate e mezzo di peso. Secondo UNRAE, che è l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, ad agosto sono stati immatricolati 81.491 autocarri, cioè l'8,6% in più rispetto allo stesso mese del 2014. Al direttore generale di UNRAE, Romano Valente, abbiamo chiesto il significato di questi dati e le prospettive in vista dei prossimi mesi. La crescita che abbiamo visto nel mercato dei veicoli commerciali è stata ottenuta grazie alle forti azioni commerciali messe in campo da case e concessionari per stimolare le vendite, in particolare dei veicoli Euro 5 che hanno possibilità di vita ancora per i prossimi 12 mesi e soprattutto prima dell'entrata in vigore dal 1 settembre della normativa sulle emissioni inquinanti Euro 6 che si applica anche a questa categoria di veicoli. Tuttavia dobbiamo segnalare che il recupero delle vendite rispetto a quanto perso negli anni di crisi, a parte i fenomeni contingenti che abbiamo prima descritto, rimane tuttavia lento e legato al lieve miglioramento dello scenario economico e al contributo della legge Sabatini. Pertanto noi come UNRAE continuiamo a ribadire che c'è bisogno che il decisore pubblico intervenga già con la prossima legge di stabilità ad alleggerire la pressione fiscale sulle aziende e ottenere così un benefico ritorno soprattutto sul rinnovo di quel 40% di parco circolante che ancora ante e euro 3. In questi giorni è emerso un altro dato che va sempre nella stessa direzione, cioè consolida la tendenza positiva. Ad elaborarlo è ACEA, secondo la quale nei primi 8 mesi del 2015 sono aumentate anche le immatricolazioni dei mezzi pesanti, cioè con portata superiore alle 16 tonnellate. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso in Italia si è registrato un più 24%, cioè una crescita superiore rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea, che si attesta al 20,7%. Se si prendono in considerazione i singoli paesi, il dato italiano risulta ancor più rilevante. Per esempio, in Francia le immatricolazioni di veicoli pesanti sono aumentate meno della metà, cioè il 10%. Ancora più netta la differenza con la Germania, dove la crescita è rimasta sotto il 4%. E notizia di pochi giorni fa, le accise sui carburanti non aumenteranno, ma tra le imprese di autotrasporto preoccupa la prospettiva di un taglio dei rimborsi determinato da un altro possibile effetto della spending review. Contro questa ipotesi è intervenuto Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Dice: il rimborso dell'accisa sul gasolio per l'autotrasporto serve ad uniformare i livelli di costo del carburante tra i vari paesi europei ed è fondamentale per garantire la sopravvivenza delle nostre imprese. A pagare le conseguenze di un eventuale taglio di questo sostegno, aggiunge Anita, sarebbe l'intero comparto produttivo. Aumenterebbero i costi di trasporto con ricadute sul prezzo finale delle merci. Hashtag Autotrasporti termina qui. Vi ricordo l'appuntamento del sabato alle 13.15 con Container, il settimanale di Radio 24 sul mondo dei trasporti. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.